Matteo, capitolo 8. Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo, «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù stesa la mano lo toccò dicendo, «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse, «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Or quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo, «Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato». Gesù gli disse, «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispondendo disse, «Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno, va, ed egli va, e ad un altro, vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa». E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano, «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti». E Gesù disse al centurione, «Va, e come hai creduto, siati fatto». E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli si presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse, «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». E Gesù gli disse, «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo». Ed un altro dei discepoli gli disse, «Signore, permettimi d'andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse, «Seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti». Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca, che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono, dicendo, «Signore, salvaci, siamo perduti!» Ed egli disse loro, «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora levatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano, «Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?» E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi, che niuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare, «Che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci?» Or lungi da loro v'era un gran branco di porci che paceva, e i demoni lo pregavano dicendo, «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Ed egli disse loro, «Andate!» Ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini.